Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cagliari con Anna Melis. Per cominciare questo viaggio, oggi voglio prendere a prestito le parole di D.H. Lawrence, parole con le quali comincia uno dei suoi libri scritti durante la permanenza in Italia. Si sente la necessità assoluta di muoversi, e soprattutto di muoversi in una direzione particolare. Una doppia necessità, muoversi e sapere in che direzione. Perché non si può stare seduti, immobili. È il gennaio del 1921 e lo scrittore inglese è con la moglie a Taormina. Vuole andare, anzi ne sente proprio la necessità, ma deve anche scegliere una direzione particolare e così sceglie la Sardegna in un viaggio che durerà 9 giorni e dal quale nascerà il libro Mare e Sardegna. E da dove cominciare se non da Cagliari? La città di Cagliari è situata nella zona meridionale della Sardegna e si affaccia al centro del Golfo degli Angeli. Si sviluppa intorno al colle dello storico quartiere di Castello, delimitata a est dalla Sella del Diavolo, dalla Catena dei Sette Fratelli e dallo Stagno di Molentargius, a ovest dai Monti di Capoterra e dallo Stagno di Cagliari, a sud dal mare e a nord dal colle di San Michele e dalla pianura del Campidano. Ha in comune con Roma, Lisbona e Istanbul il fatto di essere stata costruita su 7 colli che identificano altrettanti quartieri cittadini. Castello, Tuvumannu, Tuvixeddu, Monteclaro, Monte Urpinu, Colle di Bonaria, Colle di San Michele. La città è caratterizzata infatti da zone collinari come i quartieri storici di Castello, Stampace, Marina e Villanova e da zone pianeggianti che rappresentano la maggior parte dei quartieri sorti a partire dal XIX secolo. Ma non è l'autore dell'amante di Lady Chatterley che ci porterà a Cagliari, bensì Anna Melis, che comincia la sua descrizione dell'isola nella quale è nata parlando del tempo. La prima cosa che senti quando arrivi in Sardegna è il tempo. Il tempo è qualcosa che noi continuamente inseguiamo perché ci sfugge, perché è troppo poco, perché non ne abbiamo abbastanza. Però la consistenza del tempo è tutt'altro affare, è qualcosa che non sempre è chiara. La prima cosa che capisci arrivando in Sardegna è la consistenza del tempo. Il tempo che è qualcosa di calmo, di rassicurante, quasi di eterno, ma non di statico. Non c'è bisogno di inseguirlo in Sardegna, perché in Sardegna il tempo ti aspetta e ti viene anche incontro. Lo stesso Lawrence aveva legato il concetto di tempo alla Sardegna dicendo «La Sardegna è fuori dal tempo e dalla storia». Forse è perché, come dice Anna, il tempo la ti aspetta, ti viene incontro e non c'è bisogno di inseguirlo. Sembra di starne addirittura fuori. Città è Cagliari e tu lo sai. Di Cagliari cosa posso dirti? Potrei provare a immaginare di Cagliari qualcosa che mi manca, cioè provare a passeggiarci adesso in mezzo e cercare di evocare le cose più caratteristiche della mia città. La prima cosa che mi viene in mente è il colore. Il bianco della città bianca. Cagliari è definita come una città bianca perché è realizzata in pietra calcarea, brillante, brillante al sole proprio. E poi il mare che dal porticciolo di Marina Piccola abbraccia un litorale di circa 8 chilometri con una spiaggia amplissima e sabbiosa e frequentatissima da sempre da tutti i cagliaritani. È la loro spiaggia. Bella questa precisazione. Una spiaggia che è degli abitanti e non solo dei turisti. Mi viene in mente una passeggiata che è come se vedesse tutta Cagliari quasi di colpo, così, con un getto d'occhio. La passeggiata di Viale Europa sul colle di Monte Urpino, da cui si ammira a sud lo stagno di Molentargius con dei fenicotteri rosa bellissimi e la spiaggia del Poetto, con una splendida vista sul Golfo degli Angeli e al centro il promontorio della Sella del Diavolo. Mentre a ovest lo stagno di Santa Gilla che è ricchissimo di uccelli e fenicotteri. All'orizzonte ci sono i monti di Capoterra e dell'Iglesiente e si gode poi della bellissima vista sulla tipica skyline del quartiere medievale di Castello. Ecco sì, Castello. Castello è un posto bellissimo. La passeggiata più romantica va fatta proprio lì, verso sera, a partire dalla zona alta del quartiere di Castello, ad esempio da Piazza Palazzo col Palazzo Vicereggio. E poi ti addentri nel cuore delle stradine medievali, strette e chiuse tra edifici molto alti, che a destra sbucano nell'antico ghetto ebraico col bastione di Santa Croce, affacciato verso ovest su tutto il quartiere di Stampace. E da qui puoi affacciarti oltre la porta della Torre dell'Elefante per guardare il caratteristico elefantino e poi procedere ancora a ritroso verso sinistra e poi puoi zigzagare ancora nelle viuzze di Castello fino a sbucare nella piccola terrazza, una terrazzina deliziosa sotto i contrafforti, affacciata sulla zona est di Cagliari e infine scendere fino a Bastione di San Remi tra le scalette, le palme e i tavolini dei bar, ad ammirare uno spettacolo magnifico, i colori del tramonto, sul quartiere della Marina del Poetto, col porto. E il lungomare, come ti ho detto, del Poetto, che è bellissimo. Un colpo d'occhio niente male per cominciare la nostra visita, raccontato con tanto trasporto dalla mia compagna di viaggio. Certo che vedere la Sardegna con gli occhi di chi c'è nato è tutt'altro affare. Non vedo l'ora di proseguire con Anna il nostro viaggio. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cagliari con Anna Melis. Cagliari, la città bianca negli occhi di Anna Melis, ma anche in quelli di D.H. Lawrence. Ovviamente è la testimonianza di Anna quello che ci vuole per sentire il sapore di questo luogo. Tutto molto più vero e vivo anche perché, mentre mi parla, non è propriamente sola. Ma andiamo sul lungomare. Il lungomare è caratterizzato dai dei chioschetti, che lo percorrono tutto e ospitano musica dal vivo di vario genere e si raggiungono uno dopo l'altro, proprio passeggiando lungo la spiaggia, a piedi, la sera. Sono veramente molto frequentati. Sono frequentati anche in inverno. E poi altre cose caratteristiche di Cagliari che mi piacerebbe moltissimo, la piccola piange, che mi piacerebbe moltissimo vedere in questo momento sono l'anfiteatro romano con la sua caratteristica cornice che ospita numerosi concerti, eventi musicali, teatro e danza, in cui ho visto tantissimi spettacoli e io stessa sono stata. E il terrapieno, la piccola piange, il terrapieno con Viale Regina Margherita che costeggia il lato sud del bastione del quartiere di Castello e si affaccia sull'antico quartiere agricolo di Villanova. Ecco, queste sono le cose più caratteristiche, secondo me, della mia città che mi mancano. Il colore bianco, le stradine di Castello con questi palazzi molto alti e stretti, il bucato steso ad asciugare, la zona del porto con Viale Roma, è una zona molto caratteristica che assomiglia alla Barcelloneta, costruito un quartiere infatti dagli spagnoli. Ci sono proprio dei posti estremamente simili alla zona, diciamo, portuale di Barcellona, la Barcelloneta. Ebbene sì, con noi c'è anche Emma, la figlia di Anna di soli 3 mesi, che ha deciso di partecipare al viaggio a modo suo. E poi soprattutto il lungomare del Poetto è bellissimo perché si gode di una spiaggia ampissima e del porticciolo della Marina Piccola, che è veramente caratteristico per fare delle passeggiate, degustare qualcosa, prendere un aperitivo, sentire l'odore del mare, vedere i bambini di 4 anni che fanno scuola di vela, è veramente molto molto caratteristico. Eccola. Poi se invece desideri, puoi passeggiare a Cagliari in due parti della città diversa. Quella di Castello, che abbiamo già detto che secondo me è in assoluto la più romantica, perché è quella antica, è quella che in ogni piccolo angolo, ogni pietra, ogni cornice architettonica evoca qualcosa della storia della città. E poi invece la Cagliari più moderna, che è ricca di attrattive dal punto di vista magari più turistico, negozi, ristorantini. A Cagliari si va notoriamente per mangiare e degustare il pesce, ci sono anche dei bellissimi ristoranti che affacciano proprio sul mare, e caratteristici anche proprio per la posizione, perché ti puoi godere i sapori del mare e la vista del mare contemporaneamente. Cagliari moderna e Cagliari antica nella voce di Anna Melis. La scalinata della chiesa di Bonaria. La scalinata della chiesa di Bonaria che arriva praticamente fino alla zona portuale e sale su fino alla chiesa, appunto, che è amatissima dai cagliaritani per il fatto dell'effigie della Madonna, di una Madonna la cui tradizione vuole che fosse appunto un'effigie di una Madonna scura trovata all'interno di una cassa pervenuta dal mare, pervenuta dopo un naufragio dal mare sulle rive del porto di Cagliari, diciamo. E questa Madonna è, diciamo così, molto molto sentita, è proprio una cosa caratteristica della storia di Cagliari e diciamo dei cagliaritani stessi, che riconoscono nel mare e nel loro legame appunto con la natura del mare un sentimento profondissimo, per cui la loro spiaggia, il loro mare, le loro coste non troverai mai in Sardegna, anche se le cose chiaramente cercano un po' di verificarsi, ma non troverai mai, diciamo così, quel sentimento che può esserci altrove di tipo turistico, con un lungomare costellato da stabilimenti o da attrattive, che siano meramente, diciamo, di tipo, come vi posso dire, turistico, come può esserci nella Riviera Adriatica. Ecco, da noi il mare è, come dire, un mare nostro, e rimane ancora quel sapore di dire vado in spiaggia col mio ombrellone, col mio asciugamano e me la godo, e insomma, come dire, una dépendance del giardino di casa. Chiaramente le cose pian piano si modificheranno anche lì, si sono già modificate in parte, ma il sentimento rimane quello di un qualche cosa che ti appartiene storicamente, culturalmente e fisicamente anche, insomma. Eccolo di nuovo, il mare e il sentimento di appartenenza. Bellissima appunto anche tutta la zona del Poetto, perché ci sono anche tante case che sono vicine al mare, quindi proprio si gode la vista, oltre che l'odore del mare da molto vicino. Ecco, questo ti posso dire, il legame con la natura e il tempo, che nonostante sia una grossa città, Cagliari come tutte le altre avrà i suoi ritmi e quindi le sue necessità, le sue urgenze, però ecco, questo fatto di poter assaporare una certa calma, una certa pacatezza anche nel ritmo della vita è tipico, è caratteristico della Sardegna, e credo che non sia esclusivo delle zone di mare, credo che sia proprio della mia terra, ma anche delle zone interne, delle zone più montuose, è una cosa tipica insomma della Sardegna. Chiedo ad Anna di parlarmi del suo libro, la sua opera prima, che della Sardegna porta tutti i colori. Il romanzo che sta per uscire da qui a 100 anni è un romanzo ambientato in Sardegna, la Sardegna degli anni 50, e quindi non è la Sardegna di oggi, anche se per tantissimi aspetti insomma la ricorda, e è una saga familiare, diciamo così, che è chiaramente nutrita dalla mia esperienza personale con il legame con la Sardegna, con le cose che, diciamo così, sono andata poi a conoscere per quanto riguarda la storia della mia isola. E quindi sì, io ho scritto questo romanzo perché, come opera prima, diciamo così, è stato come una sorta di taglio del cordone ombelicale per rimanere in tema di maternità. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cagliari con Anna Melis. Anna Melis è nel suo studio a Bologna e non è sola. Ha in braccio la figlia Emma di appena 3 mesi che ha già fatto sentire la sua voce. Si sta parlando di Sardegna, la terra dove Anna è nata e dove spera di poter far scorazzare anche Emma. Il suo primo romanzo, Da qui a 100 anni, è intriso di isola e di famiglia e, come l'ha definito la mia compagna di viaggio, è stato una specie di taglio del cordone ombelicale. Mi piace da sempre scrivere, avevo bisogno di scrivere qualcosa sulla mia terra, come dire, per battezzarmi, per, diciamo così, emanciparmi, ma non so neanche come dire, proprio per tributare qualcosa all'isola, al mio legame con essa, alle mie radici. Io non vivo più in Sardegna purtroppo da più di 10 anni, però ci torno sempre ogni anno, più di una volta all'anno, e sono felice che le mie figlie facciano il bagno in Sardegna, che conoscano quel mare e non la riviera adriatica, che magari è più vicina a Bologna, la città in cui abito. E sono felice che conoscano i vari aspetti della Sardegna, le coste del nord, le coste del sud, l'est e l'ovest. La Sardegna è varia e sta tutta nel libro di Anna. Ancora la giro con immensa curiosità, ancora conosco con stupore la diversità che c'è tra, non so, gli abitanti, diciamo così, della zona nord rispetto alla zona sud, est o ovest, perché ci sono delle differenze molto profonde ancora, soprattutto nell'atteggiamento delle persone, nel modo di rapportarsi a te. E chiaramente Cagliari è una città molto grossa, quindi da sempre ho avuto una serie di contatti con altre città e col mondo in generale, diciamo così. I sardi sono stati sempre grandi navigatori, mentre magari i paesi interni più chiusi, ecco sì, manca magari questa prospettiva più ampia, e però trovi delle cose squisite dal punto di vista sia culturale sia proprio umano, che ti riportano a una specie di mini mondo di realtà chiusa ma perfetta e comunque sia ancora, cioè, gustabilissima in tutta una serie di aspetti. Ecco, questo sì, questo mi piace sempre e ne sono molto anche meravigliata, perché io devo ammettere questo, non so che cosa possa sembrare dal romanzo che ho scritto, però ci tengo a dire che io non sono una, diciamo così, esperta né di storia della Sardegna, né di cultura sarda in quanto tale, né di lingua sarda. Io sono semplicemente una, posso dire, una donna, una mamma, una ragazza sarda che amo tantissimo la mia terra e me la sento dentro. Ed è proprio il fatto di essere una donna, una mamma, una ragazza sarda che fa amare particolarmente questa terra anche a me attraverso il suo racconto. Quello che scrivo nasce da un sentimento, non nasce da un approfondimento culturale, da un approfondimento storico. Certo, c'è stata un'attenzione a tutta una serie di aspetti da cui non si può prescindere, chiaramente. Però ecco, è frutto di un sapore, di un gusto, di un aroma, di qualche cosa che mi porto dentro e che sinceramente non volevo perdere, anzi volevo che altri potessero gustarla insieme a me. Non c'è bisogno di approfondimento culturale e storico se si porta dentro in questo modo un luogo. L'approfondimento è scavare semplicemente nella propria anima per trovare quella coscienza collettiva che ci fa essere quello che siamo e attingere da lì. L'avere in braccio la sua ultima nata mentre mi porta in giro è doppiamente un onore. E quando le chiedo di leggermi un passo del suo libro che la possa rappresentare al meglio, ne sceglie uno che sembra proprio l'immagine che ho di fronte agli occhi. C'era una tradizione a casa Mele, che era quella di fare sempre rumore, un chiasso caotico che trambustiava. Ma in quel chiasso c'erano voci di donne, pianti di figli che tittavano al seno, urla di maschi che cannoneggiavano. Non so perché, ma era un chiasso di vita. Nessuno di noi se ne voleva privare. Quel chiasso di vita che è entrato anche qui. Un'iniezione di energia per dare a questo viaggio lo spessore della realtà, anzi, si potrebbe quasi dire della verità. Mi sento così accolta in questa sua intimità che chiedo com'è l'ospitalità dei sardi. Grande. I sardi per definizione sono persone estremamente ospitali, ma c'è una piccolo ma da fare, da dire come preambolo. Allora, il sardo ti deve conoscere. Se ti conosce, ti dà l'anima. Ma questo ma iniziale è un atteggiamento che purtroppo secondo me è proprio un retaggio storico, per questioni appunto storiche della Sardegna, e che ancora spessissimo si può incontrare nell'interno sicuramente, ma anche in una città grande come Cagliari. E ossia, si tratta un po' di un atteggiamento un po' di diffidenza, un po' scostante, un po'... non immediatamente, come ti posso dire, aperto come quello di un bolognese, che se tu vai in un tabacchino e chiedi un'indicazione stradale 25 persone escono e ti dicono che ti portano loro. Ecco, può essere diverso. Ricordo quando mia mamma è arrivata in Sardegna, è arrivata quando aveva circa 30 anni, e lei mi dice sempre che quando entrava nei negozi di Cagliari, quindi non negozi dei paesini, mia mamma non è sarda, mia mamma è bolognese, quando entrava nei negozi un po' si sentiva guardata, come se appunto dicessero che cosa vuole questa. Ovviamente un negoziante invece avrebbe tutt'altro interesse, cioè dovrebbe accogliere il cliente in tutti i modi possibili. Deu, se si sa era. Tua bisera, casa manza nubola, sosa vide mi canto, casa manza nu su mondo affanco. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Cagliari con Anna Melis. Sono entrata nella casa di Anna Melis, che tiene in braccio la sua ultima nata, Emma, una bimba di soli 3 mesi. L'accoglienza è stata enorme. Quell'intimità tra madre e figlia che con la mia intervista sono andata a turbare ha reso questo viaggio nella terra d'origine di Anna molto più vero e vivo. E a proposito di ospitalità sarda, la mia compagna di viaggio mi ha raccontato di come sua madre bolognese, trapiantata a Cagliari, vivesse stranamente la diffidenza tipica di quelle parti. E l'aneddoto che segue è davvero divertente. E ancora mi diceva un'amica carissima in un paese, il paese più alto della Sardegna, Fonni, che adesso non ti saprei dire quanto, ma parliamo forse di un 50 anni fa, o forse anche meno, quando fu fatta la prima pizzeria, mi sembra, di questo paese, forse più di 50 anni fa, adesso non lo so perché sono i racconti delle amiche. Ecco, però mi diceva che proprio la nonna, una nonna in questa famiglia dove c'era una persona che intendeva aprire un locale dove dar da mangiare ad altri, molto scocciata e risentita, diceva: ma non possono andare a casa loro a mangiare, cioè devono mangiare, dobbiamo dargli da mangiare noi, ma si arrangino. Ecco, certe cose le puoi trovare ancora in Sardegna comunque. Cioè, sì, ci sono delle realtà affascinanti da questo punto di vista. Naturalmente, cioè, ripeto, i sardi sono, secondo me, per tantissimi aspetti, le persone più ospitali, tra le più ospitali del mondo. Non posso dire le più ospitali del mondo, perché farei torto a chissà quante altre culture, ma sono molto, molto, molto ospitali, e anche a distanza di tantissimo tempo, cioè non li vedi, non li senti per tanto tempo, e insomma, a memoria di un bastardo come quella di un elefante, nel bene e nel male, quindi sono capaci di darti veramente il meglio di quello che hanno, il meglio in termini affettivi, il meglio in termini anche materiali, cioè ti ospitano bene, rendendoti proprio gradevole la permanenza, e quindi a livello di preparazioni, di accoglienza negli ambienti, nella cucina, nelle degustazioni, nei posti che ti portano a vedere, così ti si legano, ti acchiappano, devi fuggire a un certo punto perché non ce la fai più. C'è accoglienza e accoglienza, quindi, ma la visita sta per finire. Vorrei potermi portare a casa qualcosa, anche se l'immagine di Anna che allatta sua figlia mentre mi racconta della sua Sardegna potrebbe già bastare. Allora, quello che ti devi portare a casa è assolutamente né sabbia, né rocce, né piante, non rovinare l'ambiente come fanno tutti, non tagliare pezzetti di rocce della gallura o fare cose di questo tipo. Portati a casa in una valigia il profumo delle cose, non so, lasciate al sole della Sardegna. Il profumo, il ricordo dell'aria della Sardegna. Sì, una cosa te la posso concedere, un rametto di mirto. Te lo porti a casa in valigia, in una bustina, così l'aroma rimane lì. Non c'è bisogno di portarti dietro la bottiglia di mirto, ma il ramettino, basta e avanza. Con il mio rametto di mirto come souvenir, che potrò annusare ogni volta che vorrò rivivere parte di questo viaggio, sono arrivata alle ultime domande per Anna. Quella sul cibo è un classico. Tutti i tipi di pesce, però ecco, quello è un discorso che non, insomma, in Sardegna, essendo un'isola, cioè, al mercato di San Benedetto puoi fare veramente di tutto, è molto fuori, un bellissimo mercato secondo me. Però se dovessimo dire qualche cosa di proprio tipico della Sardegna, io, fammi pensare, qualcosa di proprio tipico della Sardegna, forse tra i dolci. Sì, non lo so, le sebade, le seadas, a me piacciono tantissimo, le puoi gustare col miele o con lo zucchero. Sono dei dolci tipici fatti con un formaggio un po' acidulo, molto particolare, cioè è difficilissimo fare questi dolci. A me piacciono molto, li ho trovati solo in Sardegna, mentre magari altri tipi di dolci, non so, a base di frutta secca, ecco, sono comuni, cioè sono simili a quelli di altre zone del sud Italia. Cioè le seadas non lo trovate da nessun'altra parte. Dopo la domanda sul cibo, arriva quella legata agli scrittori che ispirano Anna a fare dei viaggi. Il primo della lista mi ricorda tanto il titolo del suo romanzo Da qui a 100 anni. Lo vorrei fare, non mi è ancora capitato, non sono riuscita. Devo andare in Centro e Sud America. Io adoro Gabriel Garcia Marquez, poi la Isabella Allende, Angeles Mastretta, però non ci sono ancora riuscita. Ma lo devo fare, assolutamente. Siamo veramente alla fine. Per chiudere questa visita guidata a Cagliari in compagnia di Anna Melis e di sua figlia che ha fatto delle incursioni di vita nella nostra chiacchierata, riprendi in mano D.H. Lawrence, che col suo romanzo Mare e Sardegna è venuto con noi. Grazie Anna per avermi fatto entrare così dentro alla tua terra, fatta di mare e famiglia. Ah, se si potesse navigare per sempre, su una piccola, tranquilla nave solitaria, di terra in terra e da isola a isola, e andare a zonzo per gli spazi di questo mondo meraviglioso, sempre per gli spazi di questo mondo meraviglioso. Dolce sarebbe a volte venire sulla terra opaca, arrestarsi contro la terra rigida, annullare la vibrazione del proprio volo contro l'inerzia della nostra terra firma. Ora Anna Melis è in libreria con Da qui a 100 anni, edito da Frassinelli. Non potrò riposare.